generalmente si fanno alla fine gli applausi, noi li facciamo all'inizio perché abbiamo fiducia l'uno nell'altro. Io voglio ringraziare ognuno di voi che è qui e voglio ringraziare in modo particolare quelli che erano qui in orario. È sempre bello essere puntuali, non lo dimentichiamo e non lo sottovalutiamo. Ok, però non sono qui per dire questo, qui per dire altro. Voglio mostrarvi un video prima di iniziare a dire qualcosa. Guardiamolo assieme. Caffè? Sì, caffè. Abbiamo una minestra sul menù del giorno. No, va bene così, grazie. È al pomodoro, l'ho fatto io con le mie mani. Ah, ok. Bene. Mi scusi, mi serve un cucchiaio! Non fa niente, l'ho trovato. Ecco la sua minestra. Ah, la minestra, giusto. Ah, sì, certo. Dobbiamo fare qualche serata a cinema assieme. È bello, eh? Questa sera tratteremo un periodo della storia di Mosè. Quante volte abbiamo sognato di fare la stessa cosa? Magari non con la minestra di pomodoro, ma di fare qualcosa di importante, un miracolo, di dividere qualcosa. E Mosè è stata una persona importante, è stata una persona che ha fatto la storia, è stato qualcuno che ha fatto la differenza. E sapete, se noi abbiamo questa aspirazione, se noi abbiamo l'aspirazione di vivere una vita straordinaria come quella di Mosè, stiamo aspirando a qualcosa di buono, stiamo aspirando a qualcosa di legittimo, stiamo aspirando, non è che siamo presuntuosi, abbiamo soltanto la giusta prospettiva della nostra vita. Volete leggere con me Efesini, il capitolo 2, il versetto 8? E infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Noi siamo stati salvati e questa non è una cosa da poco, non è una cosa da trascurare. Se noi dovessimo dire noi siamo stati guariti da un tumore, beh, noi siamo stati salvati, è superiore, perché anche se sei stato guarito da un tumore, prima o poi devi morire, come a me, ma se sei stato salvato hai la vita eterna. Quindi quando io dico noi siamo stati salvati, mi aspetto che voi abbiate un minimo di reazione di dire mo, meno male, grazie Signore, proviamo di nuovo. Noi non dobbiamo sottovalutare la salvezza perché siamo stati salvati. Già va meglio, già il Signore dice, se ne sono accorti. È buono, è buono, è buono. Ma la nostra salvezza non è un punto di arrivo, è un punto di partenza. La salvezza non è la fine di ogni cosa, anzi è proprio l'inizio. Fino a quando siamo stati salvati non serve a niente, da quando siamo salvati in poi allora conta qualcosa. Questo è il modo di vedere di Dio, perché quando dice voi siete nati di nuovo intende proprio che le cose di prima non servono. Da quel momento in poi inizia a succedere qualcosa, che diventiamo abili, diventiamo adatti a fare quello che Dio ha preparato per noi, a fare quella che è la sua volontà. E sapete, nel Salmo 139 è scritto che ogni nostro giorno Dio l'ha vissuto prima che noi lo vivessimo. Cioè praticamente lui ha scritto la storia di ogni nostro giorno. Che noi eravamo qui, lui lo sapeva. Che noi arrivavamo in orario, lui lo sapeva. Che noi arrivavamo in ritardo, lui lo sapeva e non ci voleva credere. Però è così. Dio ha scritto la storia di ogni nostro giorno. E ogni nostro giorno, quello che abbiamo vissuto o quello che andremo a vivere, lo succederà una volta solo. Noi non abbiamo la possibilità di riavvolgere il nastro della nostra vita. Cioè, ammettiamo che a me oggi non mi piace come è andata la giornata. Non ho nessuna possibilità di dire ok, iniziamo da capo, iniziamo di nuovo dalle 8 di stamattina e vediamo di cambiare le cose. No, quello che è successo è finito, è passato, non lo potrò mai cambiare. E questo almeno a me mette un'ansia, perché significa che la somma di tutti i giorni della mia vita, che mi siano piaciuti o meno, saranno la mia vita. Alla fine saranno il risultato della mia vita. E questo è qualcosa che dobbiamo considerare e che ha un grande valore. Ora la domanda giusta è: la vita che io sto vivendo è quello che Dio ha preparato per me? Perché se è così, allora ha un valore, ha un senso, ha un peso. Siamo stati salvati per qualcosa, per un motivo. Ma se non è così, stiamo perdendo l'unica occasione che abbiamo. E io vi dico queste cose perché è importante ogni tanto che ci fermiamo e ci pensiamo che abbiamo una vita soltanto. C'è stato un solo domenica 18 novembre 2018, non ci sarà più. Non ci sarà più. E quello che verrà domani e quello che verrà dopodomani diventa importante, diventa qualcosa di cui prendersi cura, perché succederà una volta soltanto. Ora, guardando a me stesso, non è che ogni giorno è al top, ogni giorno sono sicuro che è andato al meglio. Ci sono dei giorni che vanno ricordati, che vanno sottolineati. Ci sono dei giorni che è meglio dimenticare. Per esempio, io non ho mai diviso il Mar Rosso e non ho diviso mai neanche una minestra di pomodoro. Non ho diviso mai niente, proprio così. Ho fatto così che si avvicinano dei bicchieri. Non mi è mai successo. Però ci sono dei giorni che devo ricordare. La possibilità che abbiamo è quella di vivere ogni giorno quello che Dio ha preparato per noi, o di sprecare quel giorno vivendolo secondo quella che è la nostra volontà. Ora, per il fatto che non tutti i giorni sono al top, sono al meglio, ma ogni tanto mi capita la sera che dico, mo, però non doveva andare così, a me capita. Quando capita, io mi trovo a lamentarmi, io mi lamento da solo ed è brutto, sapete, perché se ti lamenti con un altro allora l'altro ti può dire, ma va bene, non ti preoccupare. Ma se ti lamenti da solo, non è che ti puoi dire tu stesso, non ti preoccupare. Ti continua a preoccupare lo stesso. E io mi lamento. E allora, quando poi sono in questi momenti qua, dico, volevo nascere in un altro posto, magari in America. Però ultimamente mi piace più l'Australia. Oppure volevo nascere un po' prima di quando sono nato, un po' dopo, perché rifletto e penso, se fossi nato un po' prima, un po' dopo, avrei avuto delle occasioni diverse. Soprattutto avrei voluto nascere in una famiglia ricca, perché avrei risolto un sacco di fastidi, di ansie e di problemi. C'è qualche altro che ha mai fatto questi pensieri? O sono solo io? Ma c'è qualche altro. Io vi ringrazio per la solidarietà. Però noi abbiamo preso come riferimento, vogliamo prendere come riferimento la vita di Mosè, per una ragione molto, molto precisa. E Mosè, facciamo il riassunto dei primi tre capitoli dell'Esodo, a Mosè è andato quasi tutto bene, perché cioè, il Mar Rosso l'ha diviso, il popolo l'ha liberato, ha fatto quasi tutto quel che doveva fare. Però l'inizio gli è andata proprio male. È nato nel popolo sbagliato. C'erano due popoli, quello egiziano e quello israelita, e uno era schiavo dell'altro, ma lui è nato nel popolo che era schiavo. Ed è nato anche nel periodo più sbagliato possibile. È nato nel periodo dove tutti i maschi li buttavano nel fiume, quindi peggio non gli poteva andare. Era piccolino, quindi non aveva ancora imparato come me a lamentarsi, però peggio vi assicuro che non gli poteva andare. Per una serie di ragioni straordinarie si è trovato a far parte della famiglia reale, della famiglia del faraone, l'uomo più importante, più potente del momento, e ha ricevuto l'educazione migliore, ha ricevuto il massimo che poteva ricevere. È diventato il nipote del faraone. E non c'è un paragone che noi possiamo fare, talmente quell'uomo era potente, influente, aveva la decisione di vita e di morte su tutto quello che gli stava intorno. Però si è fatto grande Mosè, a un certo punto si è reso conto che lui apparteneva all'altro popolo. E allora, per difendere un suo fratello, fatemi dire così, ha commesso un omicidio. E poi, per sedare la lite fra due che erano lì, che litigavano, ha cercato di mettere la pace, perché magari lui aveva studiato anche legge, aveva studiato anche diritto, quindi sapeva come fare certe cose, ma a quel punto è stato rigettato, è stato proprio così, allontanato. Dice che mi vuoi uccidere anche a me? Allora ha avuto paura ed è scappato via. Dall'Egitto è andato nella penisola del Sinai, che era a est di dove era, è un luogo arido, brutto, il deserto, cioè non c'era niente. Forse è andato lì perché lì nessuno lo avrebbe cercato. È andato lì e ha messo su famiglia e si è stabilito lì, si è sposato, ha avuto dei figli e a un certo punto si è sistemato, fatemi dire così. Faceva il pastore delle pecore. Ora, da essere una delle persone più potenti e più influenti del Regno di Israele, si è trovato lì a fare il pastore. Potete andare a leggere questa storia nei primi tre capitoli dell'Esodo. E sono passati circa 40 anni da quando è scappato via dall'Egitto e ha messo su famiglia. E sapete, Mosè era un fallito, perché aveva mancato quello che doveva fare. E io penso che anche lui sarebbe voluto nascere come a me, in un altro posto, in un altro, uguale a me. L'Australia ancora dovevano scoprire, l'America ancora dovevano scoprire, però forse c'era un posto migliore dove nascere. Mosè aveva abbandonato il gruppo di WhatsApp delle persone importanti, delle persone di successo, lo aveva abbandonato. Come quando noi abbandoniamo il gruppo di WhatsApp che non ci interessa, non ci piace più, così aveva fatto lui. Ormai si era arreso e stava con le pecore. Sapete, c'è un episodio che ci mostra proprio tutta l'amarezza, tutta la sofferenza, tutto lo stato d'animo di Mosè. Lui aveva avuto due figli. Il primo figlio lo aveva chiamato Gersom, e Gersom significa straniero. Praticamente lui al primo figlio che aveva avuto aveva dato il nome di straniero, perché lui non si sentiva a casa sua. Lui non si sentiva che stava vivendo la vita giusta, lui non si sentiva che era nel posto giusto. Lui si sentiva uno straniero con se stesso. Lui era a disagio. Io non lo so se a voi è mai capitato di mettervi le scarpe di un'altra persona. Posso essere uguali, lo stesso modello, uguali a quelle tue, però quando te le metti il piede si ribella, dici no, questa non è casa. Così si sentiva Mosè, si sentiva esattamente così. E sapete, questo è qualcosa che succede a ognuno di noi quando noi non stiamo vivendo la vita che Dio ha preparato per noi. Quando noi stiamo vivendo un'altra realtà, noi siamo nella stessa condizione di Mosè. E noi possiamo abituarci, noi possiamo rassegnarci, noi possiamo identificarci con quello che siamo, ma sappiamo che non siamo quello che dovremmo essere. E non lo so se ci sono le parole adatte o sto usando le parole giuste per esprimere quello che voglio dire, ma è un sentimento che vive dentro, è un sentimento che si sveglia la mattina con te e va a dormire la sera con te, e non ha a che fare con il tuo lavoro, con il tuo status, con i soldi che hai, con i problemi che hai, con i successi che hai. Non ha a che fare con questo, ha a che fare semplicemente con il fatto che tu stai vivendo la vita che Dio ha scritto per te, o tu stai facendo un'altra cosa. Puoi essere direttore di banca, puoi essere manager, o puoi essere pastore di pecore, non ha importanza. Se non stai vivendo quello che Dio ha preparato per te, quello che Dio ha scritto per te ogni giorno, tu ti sentirai a disagio, così come Mosè. Se noi diciamo che Mosè si sentiva un fallito, non stiamo esagerando. Ora capite bene che la distanza fra questo Mosè e il Mosè che ha diviso il Mar Rosso, che ha guidato il popolo di Israele, che è stato quell'uomo di Dio, che è, cioè, il Vecchio Testamento è quasi tutto il suo, fatemi dire così. C'è una distanza fra quest'uomo che è qui in mezzo alle pecore e quell'uomo che sarà il mezzo che Dio userà per liberare il popolo di Israele. Ora, lo scopo di questa sera è quello di mostrarci che cosa ha innescato il cambiamento, che cosa ha prodotto quel ciclo virtuoso che ha portato Mosè da quel fallimento al successo, all'adempiere alla volontà di Dio. Perché noi possiamo riconoscere, e io non devo convincere nessuno qui, noi possiamo riconoscere e sappiamo quello che stiamo vivendo. Se siamo quello che Dio vuole che noi siamo, o ci discostiamo da questo, siamo qualcosa di diverso. Tu lo sai per te, io lo so per me. Ma la cosa importante è sapere come e quali passi fare per andare nella direzione giusta e per abbracciare le opere che Dio ha precedentemente preparate per noi. Perché questo farà la differenza tra una vita consumata e una vita vissuta. Questo farà la differenza. Il fatto che tu stai vivendo la storia che Dio ha scritto per te, o tu ti stai scrivendo la storia per conto tuo. Quindi lo scopo di questa sera è quello di capire che cosa gli è successo a Mosè, che cosa ha prodotto questo salto di qualità. Andiamo a leggere assieme in Esodo al capitolo 3, il versetto 1. Mosè pascolava il gregge dietro suo suocero, cioè neanche le sue erano le pecore, vabbè, sacerdote di Madian, e guidando il gregge oltre il deserto giunse alla montagna di Dio a Horeb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo a un pruno. Mosè guardò ed ecco il pruno era tutto in fiamme. Ho sbagliato col dito. Era tutto in fiamme, ma non si consumava. Mosè disse: ora voglio andare da quella parte a vedere questa grande visione. E come mai il pruno non si consuma? Il Signore vide che egli si era mosso. Sottolineate queste parole nella vostra testa. Il Signore vide che si era mosso per andare a vedere. Allora Dio lo chiamò. Di mezzo al pruno e gli disse: Mosè, Mosè. Ed egli rispose: eccomi. Dio disse: non ti avvicinare qua, togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale sei è un luogo sacro. Poi aggiunse: io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Allora si nascose la faccia. Mosè si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Dio. Questo è un momento cruciale nella vita di Mosè. Questo è un momento che ha fatto la differenza nella vita di Mosè. Da questo momento in poi, questo Mosè che aveva paura di guardare il prune perché vedeva Dio faccia a faccia, da questo momento sarebbe cresciuto a diventare quell'uomo con cui Dio parlava faccia a faccia, e che è scritto in Esodo al capitolo 33:11. In questo episodio ci sono le chiavi per noi per fare la differenza e cambiare il corso della nostra vita. Mosè non sapeva ancora quello che stava succedendo ed era lì in mezzo alle pecore che gli faceva caldo, stava sudando e ha visto questo pruno che prendeva fuoco e che non si consumava. Forse era successo altre volte, però questa volta era qualcosa di particolare, qualcosa di inusuale. E il Signore stava richiamando la sua attenzione. Vedete, a volte nel momento proprio più normale che Dio fa qualcosa per richiamare la nostra attenzione. Proprio quando meno ce l'aspettiamo. A me, sapete quando è successo? Durante un incontro del gruppo dell'accoglienza, una domenica mattina, eravamo lì, stavamo pregando, e a un certo momento Giorgia è venuta da me e mi ha detto: sai, io sento di dirti questo, che tu avrai ancora frutto dal tuo lavoro e dal tuo ministero. E sono delle parole di incoraggiamento, sono delle belle parole, ma quando tu stai vivendo uno di quei momenti in cui magari volevi nascere da un altro posto, quelle parole assumono un valore diverso, quelle parole assumono un peso diverso e diventano qualcosa di insolito. E Dio con me ha fatto così, con te certamente ha fatto in un modo diverso, ma di fronte a qualcosa di insolito, di fronte a un appello di Dio, noi abbiamo sempre la possibilità o di muoverci verso quello che Dio ci mostra o di andare nell'altra direzione. Ecco perché è importante, quando noi abbiamo letto Mosè si mosse. Vedete, Dio è Dio e non cambia idea ed è sempre lì pronto a darci un'altra opportunità, a richiamare la nostra attenzione, ma quello che noi faremo, la direzione che prenderemo, l'attenzione che daremo a quello che succede farà la differenza. Mosè avrebbe potuto dire: ma vabbè, come tante altre volte. Lui ha detto: io voglio andare a vedere. Sapete, il mio modo di andare a vedere è stato quello di parlare con mia moglie di questo fatto. E ogni volta che io faccio una cosa del genere, inizia qualcosa. Perché il 50% delle volte che io parlo con mia moglie, capite che sto parlando di parlare di qualcosa di personale, non di parlare che cosa mangiamo domani. Al 50% delle volte non siamo d'accordo. E qua più o meno, il 50% delle volte mi pento, dice, ma forse è meglio che mi stavo zitto. L'80% delle volte non siamo d'accordo. Ce l'ho scritto qui, non posso sbagliare. E la pensiamo in modo diverso, ma sapete, quasi ogni volta, e qui non vi do le percentuali, ma quasi ogni volta il Signore si usa di lei per dirmi di nuovo, senza filtri, quello che già mi ha detto e che io ho fatto finta di non capire. Grazie, ma. E questo nella mia vita fa la differenza. Per me è qualcosa di importante. Il Signore vide che si era mosso per andare a vedere. Quando noi ci muoviamo verso la direzione giusta, permettiamo a Dio di continuare a parlarci, permettiamo a Dio di andare avanti con il progetto che Lui ha per la nostra vita. Non erano le circostanze che aveva vissuto fino a quel momento: l'omicidio, la fuga, la delusione, l'amarezza o le pecore. Non erano quelle cose che avrebbero condizionato il futuro di Mosè, ma la sua decisione di quale direzione prendere di fronte a quello che stava vivendo, di fronte a quella cosa strana che stava vivendo. Forse questo messaggio è un po' strano per te, è qualcosa di insolito. Forse queste parole ti fanno sentire dentro scomodo, un poco ti riconosci in quello che stiamo dicendo. La direzione che tu prenderai, che sceglierai di prendere, farà la differenza tra oggi e domani. Forse stai vivendo delle forme di disagio, forse stai vivendo delle forme di fallimento, forse stai vivendo delle tristezze, delle amarezze, forse ci sono delle cose che non sono quello che sai che dovrebbero essere, o forse stai ancora aspettando che si realizzi quello che Dio ti ha promesso. La differenza tra andare avanti così o iniziare di nuovo ad abbracciare quello che Dio ha preparato per te è nelle tue mani, non è in quello che è successo, perché quello che è successo non lo possiamo cambiare più, è successo, ma da adesso in poi noi possiamo scegliere di fare qualcosa di diverso. Non è quello che è stato fino ad adesso a determinare il nostro futuro, ma quello che sceglierai di fare da adesso in poi darà la possibilità a Dio di compiere la sua volontà. E sapete perché? Per una ragione molto molto semplice: perché Dio ci conosce, perché Dio è Dio. E Dio non si lascia influenzare da quello che è successo. Dio non si lascia intimorire o non dice, ma vabbè, ormai Stefano ha chiuso. Io lo dico per me stesso. E poi lui mi dice, no, io credo ancora in te. E Dio ci conosce. E sapete come ci conosce? Io voglio concludere leggendovi il Salmo 139. Il Salmo 139 parla di come Dio ci conosce, parla di quello che noi siamo per Dio e Dio è per noi. Il Salmo 139 dice: tu mi hai esaminato e mi conosci, tu sai quando mi siedo e quando mi alzo, tu comprendi da lontano il mio pensiero, tu mi scruti quando cammino, quando riposo, e conosci a fondo tutte le mie vie, perché la parola non è ancora sulla mia lingua che tu, Signore, già la conosci appieno. Tu mi circondi, mi stai di fronte e alle spalle e poni la tua mano su di me. La conoscenza che hai di me è meravigliosa, troppo alta perché io possa arrivarci. Dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito? Dove fuggirò dalla tua presenza? Se salgo in cielo, tu vi sei. Se scendo nel soggiorno dei morti, eccoti là. Se prendo le ali dell'alba e vado ad abitare all'estremità del mare, anche là mi condurrà la tua mano e mi afferrerà la tua destra. Se dico: certo, le tenebre mi nasconderanno e la luce diventerà notte intorno a me, le tenebre stesse non possono nasconderti nulla, e la notte per te è chiara come il giorno. Le tenebre e la luce ti sono uguali. Sei tu che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre. Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere e l'anima mia lo sa molto bene. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e intessuto nella profondità della terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano scritti tutti i miei giorni. Erano scritti tutti i giorni che mi erano destinati, quando nessuno di essi era ancora sorto. Oh Dio, quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri. Esaminami, oh Dio, e conosci il mio cuore. Mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. Vedi se c'è in me qualche via iniqua e guidami per la vita eterna. Quello che noi faremo questa sera, quello che noi decideremo di fare con quello che Dio ci ha messo dinanzi, farà la differenza da questo momento in poi. Noi possiamo scegliere di andare avanti con quello che stiamo facendo, e forse stiamo facendo anche qualcosa di buono, o possiamo decidere di riabbracciare quello che Dio ha preparato per noi, e allora faremo qualcosa di divino. Io vorrei che ci alzassimo in piedi e che ognuno di noi possa prendere qualche minuto per pensare, per riflettere, per decidere cosa ne vuole fare di quello che Dio gli ha messo dinanzi. Signor Gesù, io voglio ringraziarti per questa parola che ha portato speranza nel mio cuore. Signore, io ti ringrazio che tu non ti arrendi, non ti stanchi, non sei sorpreso da quello che diciamo o pensiamo, ma rimani fermo e stabile in quella che è la tua volontà, in quella che è il destino di vita che hai preparato per ognuno di noi. Signore, noi veniamo dinanzi a te chiedendoti perdono per quante volte non abbiamo dato peso ai tuoi appelli, e vogliamo questa sera rimettere la nostra vita nelle tue mani, chiedendoti, Signore, che tu ci possa guidare in quello che hai preparato per ciascuno di noi, dandoci il privilegio di vivere una vita che ti appartiene, una vita che dà gloria al tuo nome, una vita che è spesa per l'avanzamento del tuo regno. Grazie, Signore Gesù. Amen.